Focus Economia. secondi, un saluto da Vincenzo Miglietta e bentrovati con una nuova puntata di Focus Economia. Subito uno sguardo veloce ai mercati con il secondo giorno negativo della settimana per le piazze europee. A mezz'ora dalla chiusura FTSE MIB meno 1,38%, sospese a Milano MPS Mediolanum, vendite su tutte le banche, mentre la maglia nera va a Finmeccanica meno 4,88%, penalizzata dopo lo stop di Mosca all'acquisto di 35 elicotteri. In tensione anche il mercato obbligazionario, con lo spread BTP Bund in salita a 246 punti, mentre l'euro si porta ai massimi da 6 mesi sopra 1,34 dollari. Positiva invece Wall Street dopo la giornata di ieri, che si era chiusa invece sostanzialmente in segno negativo. Probabilmente da Wall Street è spinta dai futures, evidentemente non preoccupata dalle indicazioni che arriveranno domani dalla Fed sugli aiuti ai titoli di Stato americani. Ma di tutto questo parleremo nella seconda parte di Focus Economia. Tra breve avremo invece ospite il vice ministro all'economia Pierpaolo Baretta, che ci parlerà di IMU e di quanto deciderà la maggioranza sulla famosa prima rata non pagata a giugno. Sappiamo che il governo si è preso l'impegno di trovare una soluzione entro il 31 di agosto, mancano pochi giorni, sentiremo quali sono le anticipazioni proprio dalla voce del vice ministro. E ancora sulle pensioni, altro elemento di polemica estiva, soprattutto sulle pensioni d'oro. Si era parlato di un prelievo, poi a suo tempo bocciato dalla Corte Costituzionale. Su questo punto, dopo che ci sono state anche le pubblicazioni poche settimane fa di alcune pensioni d'oro, che evidentemente, le ricorderete, erano veramente sproporzionate, si parlava anche di 90.000 euro al mese per qualcuno, su questo si aspetta un intervento del ministro del Lavoro Giovannini, che ha chiesto anche una consulenza al presidente dell'INPS Mastrapasqua, e lo abbiamo sentito in giornata. E poi la lotta infinita della Guardia di Finanza agli evasori: oggi nuova operazione con 5.000 evasori totali per un gettito non corrisposto pari a 17 miliardi di euro, e qui le considerazioni sarebbero tante. Pensiamo solamente, con 17 miliardi di euro l'anno in più, cosa si potrebbe fare se consideriamo che, per esempio, togliere la prima rata dell'IMU vale 2 miliardi e mezzo, e il governo non riesce a trovarli. Questi dunque i temi di Focus Economia di oggi. Aspettiamo i vostri suggerimenti al 349-238-6666, e poi vi ricordo anche la pagina di Focus Economia su Facebook. Ma veniamo ora alle consuete notizie in breve. Partiamo dall'oro, in calo a 1355,70 dollari sui mercati asiatici. Il metallo prezioso viene scambiato a questa cifra all'oncia, perdendo lo 0,3%. Petrolio in flessione sul mercato after hours di New York. Il WTI con consegna a settembre passa di mano a 106,58 dollari al barile. In calo anche il Brent con consegna a ottobre, che a Londra passa di mano a 109,37 dollari al barile. Veniamo alle parole del presidente degli Stati Uniti Barack Obama, sempre in tema economico. Per una classe media forte abbiamo bisogno di un sistema finanziario stabile, di tutele, di buonsenso per le famiglie americane, lo ha detto Barack Obama incontrando le autorità di regolamentazione per fare il punto sulla riforma di Wall Street. Sempre Obama: è necessario velocizzare l'attuazione della riforma di Wall Street per prevenire i danni finanziari che hanno portato alla grande recessione. Ma la giustizia americana mantiene i fari accesi su chi è stato coinvolto più o meno nella grande bolla dei derivati inizialmente, e poi in tutto ciò che ne è conseguito. Parliamo in questo caso di JP Morgan, ne abbiamo già anticipato qualcosa ieri. Il Dipartimento di Giustizia indaga su JP Morgan per accertare se la banca abbia manipolato i mercati dell'energia. Ieri invece JP Morgan era coinvolta in aiuti ai familiari di alcuni dirigenti cinesi che avrebbero portato questi aiuti poi a delle commissioni proprio nel grande paese asiatico. In questo caso invece oggi parliamo di JP Morgan coinvolta nei mercati dell'energia. Secondo il Wall Street Journal, le autorità americane hanno deciso di esaminare le pratiche dopo che la banca ha patteggiato nelle scorse settimane proprio l'accusa di aver manipolato i mercati della California e del Midwest. Velocemente due notizie sulla Grecia, perché poi ne parleremo in chiusura di trasmissione. Secondo il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, la Grecia avrà bisogno di nuovi aiuti. Gli eurobond non aiuterebbero i paesi in difficoltà, ha detto il ministro tedesco, che ha anche sottolineato che l'uscita della Germania dall'euro sarebbe comunque una grande catastrofe. E domani ad Atene vi sarà il membro tedesco del board della BCE Asmussen, e incontrerà i dirigenti locali proprio per fare il punto sui tagli alla spesa pubblica, argomento questo molto importante che, come dicevamo, ne parleremo in chiusura di trasmissione. Torniamo in Italia. Entra in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto Fare, lo annuncia in una nota il ministro per la semplificazione Giampiero D'Alia. Il decreto, spiega D'Alia, interviene su adempimenti burocratici che hanno un costo stimato sulla base della misurazione degli oneri realizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica in circa 7,7 miliardi all'anno per le piccole e medie imprese. Costi quindi per le piccole e medie imprese di 7,7 miliardi. Attraverso questo decreto, secondo D'Alia, si avranno almeno 500 milioni di euro all'anno di risparmi. Lo abbiamo anticipato, la Guardia di Finanza nella sua lotta all'evasione fiscale, notizia di oggi. L'abbiamo ascoltata poco fa anche nel nostro GR, scoperti 4.933 gli evasori totali scoperti dalle fiamme gialle da gennaio ad oggi. Hanno nascosto redditi per 17,5 miliardi di euro e 1.771 di loro sono stati denunciati nei casi più gravi per omessa dichiarazione dei redditi. Ascoltiamo allora Gianluca Campana, tenente colonnello della Guardia di Finanza, lo ha ascoltato per noi Elisabetta Fiorito. Ma è ancora possibile, perché forse anche complice la crisi economica le attività vengono svolte, distorcendo la concorrenza, vengono svolte in completa evasione di imposta. Il fenomeno dell'evasione fiscale, infatti, tengo a sottolineare, non lede solo gli interessi dell'erario, ma anche altera la concorrenza tra le imprese oneste. Nei primi 7 mesi di quest'anno abbiamo scoperto circa 5.000 evasori totali. Queste persone, abbiamo accertato, hanno occultato redditi imponibili per 17 miliardi e mezzo. Un'altra piaga, e quindi un altro capitolo di questa vostra indagine, riguarda poi il lavoro nero. Sì, lavoro nero e evasione fiscale sono delle piaghe, dei fenomeni illeciti tra loro contigui. Nei primi 7 mesi di quest'anno noi abbiamo individuato 19.250 lavoratori irregolari, di cui più di 9.000 completamente a nero, impiegati da oltre 3.200 datori di lavoro. Una parte di questi è stato accertato che sono stati anche impiegati in condizioni di sicurezza e in condizioni igienico-sanitarie molto, molto precarie. Così dunque l'intervento della Guardia di Finanza non solo per l'emersione dei redditi non denunciati, ma anche per coloro che assumono in nero, comunque hanno una manodopera non regolarizzata. Altro elemento importante, restiamo sul mercato del lavoro. Nel 2013 le imprese del settore privato hanno programmato l'assunzione di oltre 120.000 giovani con meno di 30 anni, un numero pari al 32,8% di tutte le assunzioni non stagionali previste quest'anno dalle imprese delle industrie e dei servizi. È quanto emerge dall'indagine Excelsior diffusa oggi da Unioncamere. I giovani sono una forza straordinaria, producono un valore aggiunto pari a 242 miliardi di euro e per questo bisogna aprire a loro le stanze dei bottoni, lo ha detto il presidente proprio di Unioncamere, Ferruccio Dardanello. Il mercato dell'auto non sono dati ufficiali a diffondere queste prime rilevazioni è il è una società che opera nel settore, la Yato Dynamics. In questo caso vi sarebbero notizie positive per il marchio Fiat, che avrebbe chiuso il mese di luglio con quasi 50.000 veicoli commercializzati in Europa, in crescita del 2-3% rispetto a 46.389 auto vendute nello stesso mese del 2012. E a luglio Fiat risulta essere il decimo marchio più venduto in Europa. Il tema delle pensioni, un tema molto importante, ricordiamo gli interventi del governo Monti, la non rivalutazione di alcuni scaglioni di pensioni, la polemica seguita a questi sacrifici chiesti a una grande platea dei pensionati, sacrifici che non avrebbero toccato i pensionati d'oro. Si è cercato di fare qualche intervento, poi stoppato dalla Corte Costituzionale. Il ministro del Lavoro Giovannini ha però l'indicazione di trovare una soluzione affinché anche chi guadagna cifre oggettivamente superiori al necessario possa dare un contributo al paese. Di questo ha parlato oggi con Alessandra Schepisi il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua. Sicuramente sarà cosa saggia studiare tutte le possibili soluzioni. Sicuramente il sistema retributivo era per alcuni versi più generoso di quello contributivo, quindi se bisogna fare qualcosa va fatto in una logica di equità e di redistribuzione solidaristica all'interno del sistema. Il mio pensiero è quella, come dice anche il professor Amato e il professor Marè, poi di renderla solidaristica e redistributiva all'interno del sistema pensionistico e non sicuramente per altre ovviamente finalità. Questo modo poi si eviterebbero i ricorsi. Non so giudicare se la proposta di uno o dell'altro può avere o meno implicazioni di legittimità costituzionale, però sicuramente se va fatto qualcosa, ritengo che non possa che essere fatto all'interno del sistema e le risorse che mai dovessero essere reperite da questa ipotetica soluzione non dovrebbero che andare, secondo me, all'interno del sistema stesso. Più in generale, ultimamente sembrano esserci dati incoraggianti sull'economia, sulla ripresa. Per quanto riguarda l'INPS, c'è qualche dato che può confermare questa tendenza? Ma guardi, noi abbiamo registrato negli ultimi 3 mesi un calo della cassa integrazione. Io ho usato un termine di timidi segnali, perché è chiaro che 3 mesi dopo anni non sono sicuramente qualcosa da far facilmente entusiasmare, però sono dei piccoli segnali. Attendiamo di vedere agosto come va anche su questo fronte. Se questo dovesse essere accompagnato da segnali macroeconomici, che però non possono che riguardare una ripresa della produzione, una crescita del PIL del paese, sicuramente i timidi segnali che abbiamo registrato sul fronte della cassa integrazione possono essere un'ottima prospettiva dalla quale guardare i problemi che si stanno affrontando. Però occorre portare ancora avanti la spending review. Su quali voci andare a tagliare? Lei recentemente ha detto occorre abolire 30.000 enti inutili per non toccare gli statali, giusto? L'INPS è pronto a fare quello che il governo e il Parlamento chiede di fare. Io sono sempre stato un fautore, lo sono tuttora, lo sono stato in questi anni, della vera spending review. Su quella l'INPS non ha timore di sedersi al tavolo con chiunque e affrontare in modo analitico e in modo sistematico quelle che sono le realtà dell'INPS per capire se c'è qualcosa ancora da poter ridurre di costi, oppure se noi abbiamo già fatto tutto. Il taglio lineare è qualcosa che colpisce tutti in modo indiscriminato. E così Antonio Mastrapasqua, presidente dell'INPS, al microfono di Alessandra Schepisi. Con questa notizia chiudiamo la nostra prima parte rivolta alle notizie in breve. E veniamo al nostro primo tema, lo abbiamo anticipato, parliamo di IMU, un argomento sempre attuale sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto politico, le due cose sono strettamente legate, un argomento ricompreso dentro la campagna elettorale di tutti gli schieramenti nella campagna elettorale di febbraio, ma diventato poi fondamentale nella nascita del governo di Enrico Letta. su forte spinta del Popolo della Libertà, si è arrivati alla sospensione della prima rata di giugno per quanto riguarda le prime case, ma poi cosa fare per il settore immobiliare? Il governo ha detto tracceremo, ridisegneremo tutto la tassazione del settore immobiliare entro il 31 di agosto. Ce la farà il governo? Lo chiediamo innanzitutto al vice ministro all'economia Pierpaolo Baretta. Buon pomeriggio e benvenuto a Focus Economia. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera. Vice ministro, lei oggi si dice sicuro che si troverà una soluzione entro agosto. Ci vuole spiegare in che cosa consiste questa soluzione elaborata evidentemente a via 20 settembre al Ministero dell'Economia? Beh, innanzitutto si tratta di abolire la rata di giugno. È impensabile che, non avendo fatto pagare a giugno i cittadini italiani della prima casa, fargliela pagare dopo due mesi. Quindi il primo impegno del governo sarà quello di cancellare la rata di giugno, dopodiché fare una riforma che superi l'IMU e introduca la tassa di servizio, la service tax, e con questa mettere a disposizione anche una cifra importante, almeno 2 miliardi, che consenta che il risultato finale dei cittadini sia che comunque pagano meno dalla nuova tassa di quanto pagavano oggi tra IMU e tasse sui servizi locali. Ecco, quindi per andare per tappe, a settembre evidentemente non sarà pagata la prima rata che doveva essere pagata, esatto, a giugno, resta l'appuntamento di dicembre per le seconde case. Beh, anche per le seconde case di sicuro, ma a dicembre ci sarà la prima rata della nuova tassa di servizio che coinvolgerà tutti, ovviamente in maniera differenziata tra proprietari ed inquilini, questo è evidente, ma in ogni caso riguarderà la nuova struttura sui servizi, che darà molto più spazio anche ai comuni di come organizzarsi. Ecco, evidentemente quando uscirono poche settimane fa alcune anticipazioni sul possibile superamento dell'IMU sulla prima casa proposte dal ministro Saccomanni, vi furono dei mal di pancia all'interno del centrodestra. Ora evidentemente è passata la linea della service tax anche evidentemente con l'avallo del Popolo della Libertà. Ma me lo auguro, mi sembra una soluzione ragionevole, ha una forte spinta federalista, raccoglie istanze e proposte che erano già emerse in tempi passati, quindi non vedo ragioni dell'obiezione alla struttura della service tax. Ci sarà da discutere probabilmente sull'articolazione pratica, ma insomma questo farà parte del confronto. Ecco, nell'ambito della service tax è una tassa che, se non sbaglio, dovrebbe basarsi sui metri quadri per quanto riguarda l'abitazione, ma ricomprendere anche dentro tutti quei servizi che i comuni prima facevano pagare a parte, cioè le fanno pagare tuttora, quindi la sicurezza delle città, la pulizia e quant'altro. Ma sì, si pensi in particolare ai rifiuti, la TARES, che oggi è la tassa che è stata adottata, è una tassa che va riformata, non piace ai comuni, quindi insomma bisognerà sicuramente ripensarci. Ecco, le rubo veramente un altro minuto, quindi togliamo la prima rata sulle prime case, che ha un costo evidentemente, il governo aspetterà dicembre per avere attraverso la service tax più introito di quello che avrebbe avuto con l'IMU, se mi corregga se sbaglio, e a quel punto abbiamo sia i soldi per eliminare la prima rata sull'IMU, ma anche ulteriori soldi da dare agli enti locali, questo è quello che mi sembra di aver capito. Sì, ma non derivano dalla rata di dicembre i soldi per gli enti locali, derivano dai soldi che metterà a disposizione il governo, perché il risultato finale dovrà essere che i cittadini pagano meno. Ecco, quindi a questo punto da dove arrivano questi soldi che evidentemente... Questo è il lavoro di questi giorni e dovrà coinvolgere non soltanto il governo ma anche la maggioranza e i partiti. Ecco, Ministro, lei che ha una lunga esperienza nel mondo del lavoro, nel mondo sindacale, lasciando da parte un momentino l'IMU, togliendo l'IMU sulla prima casa, evidentemente viene soddisfatta un'istanza di una importante componente del governo, in questo caso del centrodestra. Per quanto riguarda le battaglie storiche del centrosinistra, quindi esodati, pensioni, abbiamo ascoltato poc'anzi il presidente dell'INPS Mastra Pasqua, le pensioni d'oro, cosa ci dobbiamo aspettare dal governo sotto questi aspetti qui, soprattutto il lavoro per i giovani? Ma guardi, a parte il fatto che la riduzione della tassa sulla prima casa interessa a tutti e quindi anche al centro-sinistra, fu oggetto anche di una posizione nostra in campagna elettorale, sicuramente noi abbiamo di fronte la questione del rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, c'è la questione degli esodati che è ancora aperta, quindi ci sono più questioni che sono nel tappeto all'ordine del giorno ed è una dei motivi per i quali il governo e la cabina di regia dovranno avere uno sguardo a tutte le priorità che ci attendono da qui a dicembre, facendo dell'IMU una di queste importante ma non l'unica. Quindi l'IMU non l'unica battaglia, ma si aspettano risposte proprio sul mondo del lavoro, i dati recenti. È necessario, è doveroso e c'è una domanda sociale molto forte alla quale dobbiamo rispondere come governo e sicuramente anche la nostra parte politica la considera sicuramente prioritaria. Ecco, assolutamente la parte che lei rappresenta aspetta come prioritaria l'intervento sul mondo del lavoro. Certo, restano le perplessità su dove possano arrivare, da dove possano arrivare questi fondi per l'IMU, ma anche per gli altri interventi, vista la delicatezza del momento economico. Un ultimo minuto, le rubo. Secondo lei la luce è visibile al fondo del tunnel di questa crisi economica? Avete degli elementi di ripresa dal mondo industriale o comunque in generale dagli ordinativi? Ma guardi, qualche segnale interessante c'è, innanzitutto l'export, le aziende che stanno reggendo meglio sono quelle che esportano e c'è una tenuta, la produzione industriale non ha quella caduta che ha avuto nei mesi scorsi, ci aspettiamo anche delle entrate maggiori rispetto alla caduta che c'era stata nei primi mesi di quest'anno, anche a seguito degli interventi fatti con i pagamenti della pubblica amministrazione, con le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione delle case, insomma i segnali ci sono. E poi la cosa più importante è che parlando con gli imprenditori, con i cittadini, con i lavoratori, si avverte questa, diciamo, sensazione, non dico ancora di fiducia, ma pur nelle difficoltà drammatiche, l'idea che forse si può cogliere un momento di cambiamento e noi dobbiamo rafforzarlo assolutamente e, come ripete costantemente il Presidente del Consiglio, questo è il momento in cui bisogna dare il colpo per rendere evidente l'inversione di tendenza ed è tutto il lavoro del governo è finalizzato a questi interventi, ecco perché le scadenze da qui a dicembre diventano importantissime sia sul piano dell'assistenza di welfare sia sul piano degli interventi a sostegno della ripresa economica, che sono due argomenti che vanno molto intrecciati. Evidentemente non mi sembra preoccupato quindi per un autunno che, come qualcuno aveva detto, poteva essere caldo, cioè la ripresa potrebbe aiutare anche il clima sociale? L'autunno sarà difficile, sicuramente, perché non è che siamo fuori, ma sicuramente, come dice giustamente lei, un accenno di ripresa e un consolidamento di risultati non solo aiuta un clima sociale, ma dà una prospettiva verso un 2014 che dovrà essere l'anno in cui sicuramente si esce dall'angolo. Grazie, ringraziamo fortemente Pierpaolo Baretta, Vice Ministro all'Economia, della sua disponibilità. Ora meteo e pubblicità. Focus Economia. Di nuovo insieme per questa puntata di Focus Economia. Tra pochissimi istanti tutto l'approfondimento sulla difficile giornata sui mercati finanziari. Dicevamo dunque della difficile giornata sui mercati internazionali. A differenza di ieri, la difficoltà è stata presente nel vecchio continente, non per il momento in America, negli Stati Uniti, a Wall Street, dove il Dow Jones è più 0,31%, il Nasdaq è più 0,71%. Vi sono questi andamenti paralleli ma di segno opposto, che devono far pensare che evidentemente hanno delle motivazioni dietro questi segni, positivo e negativo. Ne parliamo con Guido Maurino, collega di Radio Core del Sole 24 Ore. Benvenuto Guido. Grazie. Senti Guido, allora partiamo dai dati della chiusura di Milano e poi via via andiamo a commentare tutto il resto. Sì, la borsa di Milano ha chiuso in calo, anche se ha recuperato leggermente sul finale. A metà pomeriggio era scivolato a oltre il 2%, invece alla chiusura il FTSE MIB ha ceduto l'1,41% e il FTSE All Share l'1,3%. Come dicevi tu, le borse europee sono andate tutte generalmente abbastanza male, perché anche abbiamo visto sia Francoforte che ha ceduto lo 0,8%, Londra lo 0,5%, Parigi l'1,3%, mentre per contro abbiamo avuto gli Stati Uniti che dopo un'apertura incerta hanno iniziato a guadagnare, gli operatori hanno preferito acquistare i titoli sull'onda anche di alcune trimestrali molto positive arrivate dagli Stati Uniti, in particolare nel settore del retail, che hanno un pochettino dato fiato agli acquisti. Ecco Guido, perché questi cosiddetti futures hanno rassicurato maggiormente gli investitori americani e non quelli europei? Perché se è vero quello che un pochino ho letto, gli europei sono anche timorosi di quello che andrà a decidere la Fed e in generale comunque vedono un po' più grigio il prossimo futuro. Sì, ci sono una serie di ragioni per quello che riguarda l'Europa, ma anche gli Stati Uniti, tutti gli operatori sono orientati a guardare quello che verrà fuori domani dalla pubblicazione dei verbali della Fed, perché si cercherà di capire quali sono le indicazioni che la Fed vorrà fornire rispetto al programma di acquisto di asset che ha contribuito a sostenere l'economia in questi mesi difficili. Per quello che riguarda gli Stati Uniti c'è maggior ottimismo è stato legato soprattutto a alcuni risultati societari che hanno contribuito a far sì che alcuni titoli balzassero in borsa e contribuissero a creare un effetto domino positivo per il listino, mentre questo è venuto meno per quello che riguarda l'Europa, dove invece ha pesato molto il discorso anche degli spread. Le borse peggiori oggi sono state quella di Milano e quella spagnola, proprio perché lo spread è tornato ad allargarsi per quello che riguarda i BTP decennali italiani rispetto al pari durata dei tedeschi. Abbiamo visto come lo spread si è avvicinato attorno ai 250 punti base, è cresciuto anche per quello che riguarda i bonus spagnoli, che sono arrivati a uno spread di 265 punti base con un rendimento vicino al 4,5%, questo ha avuto un riflesso negativo su tutto il comparto finanziario, che oggi è stato il più penalizzato in Europa e anche a Milano. Ecco Guido, andando nello specifico dei titoli di Piazza Affari, male tutte le banche, meno 5% medio l'anum e male anche Finmeccanica. Le cause del perché il comparto delle banche è così negativo e anche una tua riflessione su Finmeccanica. Sì, allora per quello che riguarda le banche e soprattutto il discorso dello spread che ho già pesato. Ci sono poi alcuni temi specifici, ad esempio Monte dei Paschi che ha fatto meno 4,4% e c'è tutta una riflessione sul piano in corso che sta portando avanti l'istituto, sulla successione dei vertici della fondazione del Monte dei Paschi, che oggi ha vissuto una fumata nera, quindi non è stato trovato il nuovo presidente della Fondazione Monte dei Paschi, e c'è stato un ulteriore rinvio a fine agosto, e c'è un ulteriore caso specifico per quello che riguarda Banca Carige, che ha ceduto al 4,66%, ieri avevamo visto un titolo molto tonico, aveva guadagnato oltre il 5%, oggi dopo la notizia che era largamente attesa, che è stata convocata un'assemblea per il 30 settembre prossimo che dovrà decidere il rinnovo del CDA della banca, e anche come dire, gestire il passaggio dopo 25 anni dell'epoca Berneschi. Berneschi è stato presidente di Banca Carige per 25 anni, ora dopo essere entrato in conflitto con la fondazione che controlla l'istituto col 47%, sembra destinato a dover lasciare l'incarico, e oggi la banca, diciamo, il titolo della banca ha ceduto in modo piuttosto evidente. Ecco Guido, abbiamo poi il male, il titolo Fiat, e con Fiat penso che possiamo concludere i titoli in negativo, e poi invece da segnalare Diasorin e Risanamento. Sì, per quello che riguarda Fiat, oggi ha pagato la debolezza di tutti i titoli ciclici, e mi collego anche a Finmeccanica che mi chiedevi prima, che ha ceduto il 5,22%, in parte perché è un titolo ciclico come del resto Fiat, è un titolo industriale puro. Per quello che riguarda Finmeccanica in più c'era anche la vicenda che riguarda una causa che vogliono intentare le ferrovie belghe per relativamente alla costruzione di un treno sulla linea Bruxelles-Amsterdam che ha registrato dei malfunzionamenti, per cui hanno deciso di intentare causa e chiedere 20 milioni. Per quello che riguarda Fiat, meno 2,65%, oltre al discorso dei ciclici pesano le indicazioni sul mercato dell'auto europeo arrivate oggi da uno studio di Yato Dynamics. A luglio le immatricolazioni in Europa dovrebbero essere salite del 4,9%, ma per Fiat la crescita sarebbe meno della metà, quindi più 2,3%, e con un mercato italiano ancora molto debole, perché è uno dei pochi mercati europei che registra una variazione negativa, meno 1,8%. Mi chiedevi ancora di Risanamento, che sì, oggi è andata particolarmente bene, ha guadagnato il 4,28%, grazie alle indicazioni arrivate rispetto al piano di dismissione degli immobili parigini. Sostanzialmente in Risanamento, in questa società immobiliare, è rimasta un'area che è destinata alla dismissione qui a Milano, l'area di Santa Giulia, per il quale è già stato individuato un compratore, e poi un pacchetto di immobili a Parigi che vale oltre 1 miliardo di euro. Sono arrivate diverse offerte per questi immobili e a inizio settembre dovrebbe essere un pochettino più chiaro cosa la società intende fare, se procedere alla dismissione oppure se esplorare una strada alternativa, che è la vendita dell'intera società al vecchio azionista di maggioranza Luigi Zunino. Guido, grazie, gentilissimo, e ci sentiamo i prossimi giorni. Grazie per il tuo lavoro. Grazie, arrivederci. Restiamo in tema di questa bufera che ha colpito i mercati internazionali. È partita questa bufera ieri mattina dall'Asia, ha coinvolto l'Europa e finendo poi negli Stati Uniti, anche se lo abbiamo detto prima, gli Stati Uniti in queste ore si stanno comportando diversamente. Allora, cerchiamo di capire il perché dopo giorni positivi, almeno quelli fino a Ferragosto, ma comunque le borse da mesi nel loro computo totale mostrano un segno positivo. Cerchiamo di capire cosa è successo con Walter Riolfi del Sole 24 Ore, un collega che è con noi dallo studio di Milano. Ciao Walter. Buongiorno a tutti. Walter, si riesce a spiegare il perché da un giorno all'altro il segno è diventato negativo, oltre a quello che è comprensibile, comunque una presa di beneficio dopo tanti giorni di segno positivo? È logico che qualcuno voglia rientrare. È sempre difficile dare spiegazioni su quello che succede nei mercati, anche perché nel breve periodo non c'è una razionalità, o almeno così ferrea, sui mercati. In realtà non è che le cose siano cambiate da un giorno all'altro, è stata la borsa italiana che la settimana scorsa è salita, non si sa bene per quale motivo, e tra l'altro abbastanza in maniera solitaria, in controtendenza rispetto agli Stati Uniti e in parte anche rispetto al resto d'Europa. Questa settimana qui ne paga le conseguenze, ma non ci sono dei veri trend, delle vere tendenze derivate da motivazioni fondamentali, tanto più qui in estate con lo scarsa attività che si fa sui mercati. Certo. Si dà l'opinione comune dice che è questa paura per la riduzione degli acquisti di titoli di Stato del quantitative easing americano. In realtà già all'inizio di questo mese qualcosa cominciava a non funzionare bene a Wall Street e dubito che fosse semplicemente legato alle iniziative della Fed. Sta un po' maturando la convinzione che un rialzo che era arrivato al massimo del 21% a Wall Street da inizio anno fosse decisamente eccessivo. Uno rispetto all'economia, due rispetto alla crescita degli utili societari che è del 6,4% per tutto il 2013 e quindi sicuramente Wall Street è andata al di là dei propri mezzi, qualche ripensamento a un certo punto arriva, magari un po' più tardi, ce lo si aspettava prima, però... Ecco, infatti Walter, di solito, ma tu logicamente hai maggiore esperienza, solitamente vi sono le prese di beneficio all'inizio dell'estate, no? È una regola abbastanza antica della borsa, all'inizio estate un po' si esce per poi rientrare a settembre. Sì, però insomma ogni ciclo, ogni anno è una storia diversa, ci sono delle somiglianze ma ci sono tante differenze, quindi io non ne farei solo una questione di calendario. Ci sono però dei motivi di preoccupazione adesso, il motivo più grosso di preoccupazione a parte il quantitative easing della Fed, cioè l'acquisto di titoli di Stato e titoli legati ai mutui casa che la Fed sta facendo per 85 miliardi di dollari al mese. Ecco, il motivo più grosso di preoccupazione è l'uscita di fondi, disinvestimenti dai paesi emergenti, paesi come Thailandia, Filippine, India, stesso Brasile sono sotto pressione, le valute degli emergenti sono cadute anche oggi, ma è una tendenza che dura già da parecchie settimane. Quindi tu dici giustamente nel momento in cui questa linfa data ai paesi emergenti venisse meno, verrebbe meno tutto un settore molto vitale dell'economia internazionale. Walter, ci fermiamo un minutino per il traffico e resta con noi e ci ritroviamo poi per approfondire questi temi di borsa. 17:48 e 24 secondi, di nuovo insieme Focus Economia, è con noi Walter Riolfi del Sole 24 Ore, stavamo parlando e cercando di capire il perché di questo stop, quantomeno dei mercati europei, stop che è iniziato ieri. Walter, tra l'altro ti arrivano dei complimenti via SMS, l'unico che vale la pena di ascoltare, Riolfi, e noi infatti lo abbiamo qui con noi, siamo in presenza dell'ennesimo scollamento tra finanza ed economia reale, scrive un altro ascoltatore. Al 349-238-6666. Walter, stavamo dicendo che forse alcune preoccupazioni sono legate a quello che potrà andare a dire domani nei suoi minute la Fed, ma sono poi così importanti queste indicazioni? Ma non lo so, qui io temo che siano i giornalisti e i commentatori a dare più un'eccessiva importanza a questo. Prima di tutto io non mi aspetto che domani dalle minute della Fed vengano fuori indicazioni particolarmente significative sull'inizio della riduzione degli acquisti di titoli di Stato, no? Si pensa che lo facciano il mese prossimo, settembre. Però non penso che le minute saranno risolutive o diano delle indicazioni comunque importanti. C'è da dire una cosa, la Fed ha manipolato con i quantitative easing, non solo la Fed, la Banca d'Inghilterra, la Banca del Giappone, hanno manipolato i mercati in maniera probabilmente mai vista nel dopoguerra. E immaginiamoci se tutto questo turbamento dei mercati per una riduzione degli acquisti di titoli di Stato. Possiamo immaginare cosa potrebbe succedere se il prossimo anno dovesse salire l'inflazione, che quindi gli Stati Uniti, la Fed fosse costretta ad alzare i tassi di interesse, sarebbe il finimondo sui mercati, no? Questo dà la misura di quanto siano stati condizionati, i prezzi sono alterati, insomma ci si scandalizza adesso perché il titolo di Stato decennale americano, il rendimento sta salendo verso il 3%, siamo al 2,83-84 oggi, ma un rendimento superiore al 3% con un'economia che comunque cresce del 2% è cosa del tutto normale in situazioni normali. Le situazioni non sono normali perché le ha artificialmente modificate la Federal Reserve. E quindi praticamente il giorno in cui dovesse venir meno in questo pompare soldi nell'economia internazionale, perché se non sbaglio non vengono acquistati solo i titoli di Stato, ma come dicevi tu prima, vengono alimentate anche le economie emergenti, ecco il perché sì, poi si crea questo cortocircuito internazionale. Con quei soldi la speculazione comprava materie prime, investiva nelle borse e nei titoli, anche dei obbligazionari dei paesi emergenti. Poi quando i rendimenti dal Treasury o dal Bund erano all'1%, si andavano a comprare obbligazioni in Brasile, in India, Thailandia, un po' dappertutto, no? Adesso che questi flussi di denaro cominciano a venir meno, si tirano via i soldi in maniera precipitosa e questo crea tutti questi scompensi, queste crisi, con il rischio che da una crisi finanziaria venga fuori una recessione. La Thailandia è in recessione, per esempio, la Thailandia, no? E quindi questa finanza sta creando dei seri danni. Stiamo vedendo qualcosa adesso, che abbiamo già visto. La crisi del 2008, del 2007-2008 è stata causata dalla finanza. La finanza che influisce pesantemente sull'economia reale e con tutto ciò che ne consegue. E Walter, in 30 secondi ti chiedo se dobbiamo essere più o meno preoccupati anche dalla risalita dello spread. O anche questo è abbastanza limitato? Ma questo qui, i movimenti sono limitati. La settimana scorsa si riduceva, adesso si alza leggermente. Non vedo elementi per creare una crisi acuta. Noi siamo in una crisi cronica, l'Italia come la Spagna, cioè i paesi periferici. Però non ci sono elementi per il momento per pronosticare, per vedere fra qualche mese una crisi più acuta. Bene, bene, grazie Walter Riolfi, collega del Sole 24 Ore. Chiudiamo questo capitolo per aprirne un altro dedicato alla Grecia. E sono questi tutti i capitoli legati uno con l'altro, ne parlavamo con Riolfi, oramai l'economia è veramente interconnessa, un'operazione fatta in America ha i suoi effetti in Asia, nelle economie cosiddette aggressive, ormai dipendenti anche da quanto viene deciso dalla Fed o dalla BCE, sicuramente coinvolta e legata alle decisioni della BCE, ma non solo, del Fondo Monetario Internazionale, è la Grecia, il governo di Atene. Da mesi un intervento drastico sulla spesa pubblica ha messo in seria difficoltà economica il paese, ma evidentemente è l'unica strada per uscire da una crisi che aveva colpito il paese che si affaccia sul Mediterraneo. Parliamo di Grecia, di Atene, con il collega del Sole 24 Ore Vittorio Darold. Ciao Vittorio. Ciao a voi. Buon pomeriggio Vittorio. Mi sembra che l'argomento Grecia sia sempre al centro dell'attenzione delle autorità economiche europee, soprattutto per gli sforzi che Atene dovrebbe fare sull'aspetto dei tagli alla spesa pubblica, che vuol dire tagli, ricordiamoci, alla famosa TV di Stato, ma non solo, a tanti servizi quotidiani che influiscono sulla vita di tutti i giorni. Che bilancio possiamo fare in questi giorni per quanto riguarda la Grecia, che forse l'abbiamo un po' scordata? Sì, la Grecia è stato il primo paese dell'Eurozona a dover dichiarare l'incapacità di andare sul mercato, quindi di poter avere un credito sul mercato. È stata la situazione, diciamo, che ha rivelato come la finanza che dava facilmente credito e dava tassi di interesse molto bassi, creando anche delle aspettative nella modalità in cui i greci avevano imparato a vivere con un credito al consumo al di sopra delle loro possibilità. E lo Stato, con le Olimpiadi del 2004, fece la stessa cosa, quindi si indebitò oltre le sue possibilità di ripagare addirittura gli interessi sul debito. Quindi un meccanismo malato di quella finanza, turbofinanza, che è arrivata al dunque. Oggi quindi Atene, sulla spinta dei creditori internazionali, la cosiddetta troica, cioè questo elemento esterno formato da Banca Centrale Europea, Fondo Monetario e Unione Europea, quindi dei paesi che hanno prestato i soldi per appunto finanziare il debito pregresso, oggi sta rompendo quel legame che in qualche modo forniva voti, un voto ai partiti che poi promettevano assunzioni nello Stato, assunzioni di massa con degli stage aperti a migliaia di giovani che poi però in realtà non avevano una vera occupazione, quindi non producevano un reddito. E questa situazione è venuta meno. Oggi la Troica ha chiesto di ridurre di 12.500 persone i dipendenti pubblici, poi ce ne saranno altri 12.500 che verranno messi in mobilità, perché il numero dei dipendenti pubblici è talmente esteso ed è al di sopra delle possibilità che il settore privato può mantenere, quindi si era andato al di là di una normale funzione statuale. Assolutamente, Vittorio. Ricordiamo, leggo qui in una nota, che i dipendenti pubblici in Grecia sono 700.000 su una popolazione di 11 milioni, quindi veramente un numero percentualmente elevato, e l'obiettivo è di arrivare a tagli di 40.000 unità entro il 2014. Sì, esattamente. Si era pensato in un primo momento di ridurli attraverso la limitazione del rinnovo, quindi per ogni 5 persone in pensione un solo nuovo assunto, e questo è rimasto un po' il fulcro della questione, ma adesso stanno anche riducendo proprio il numero delle persone, dei dipendenti, addirittura adesso stanno praticamente eliminando la polizia locale, i vigili urbani che verranno inglobati nella polizia di Stato, quindi non ci sarà più l'articolazione territoriale municipale della polizia, che avrà sì delle articolazioni naturalmente locali, ma all'interno della polizia di Stato, quindi fanno anche degli esperimenti abbastanza di maggiore efficienza, abbastanza innovativi, abbastanza duri. Questo è però l'unico sistema. Ricordiamo che il debito pubblico greco è al 170% del PIL. Quindi... Ecco, Vittorio, siamo vicinissimi alla chiusura. Io ti ringrazio. Ricordiamo quindi un debito pubblico elevatissimo per quanto riguarda la Grecia. Ringraziamo Vittorio D'Arolde del Sole 24 Ore. Ringrazio Barbara Bianchi, Mauro Del Corno, Alessandro Chiappini, Valeria Bernardi. Un saluto e a domani da Vincenzo Miglietta. Radio 24. La passione si sente. Ciao, sono Cristina Chiabotto. Io bevo Rocchetta, pulita dentro e bella fuori. Plin plin! Vi ha presentato Focus Economia.